Ragazza del filmino, se io mi sono innamorato di te, e non è solo per lavoro che fai, io ti amerei anche se tu fossi alla Rai. Ragazza del filmino zozzo, io ti corteggio, mica sono un rozzo, e ti assicuro è solo un caso pazzo, se queste frasi fanno rima con cazzo. Io non riduco di certo la tua personalità, riesco a vedere addirittura al di là, dall'altra parte dello schermo del PC, quando di notte ti guardo da qui. Ragazza del filmato hardcore, mi piace come dici give me more, tra l'altro trovo che di shakespeariano nel tuo film stile recitativo. Riesco a vedere i miei occhi e non solo bacio, quelle volte che ti quadrano in faccia, invidio il tuo protagonista o quello che ne resta, e per te mia cara ho perso la testa. Ragazza del filmino porno, io ti amerei per tutto un santo giorno, e se potessi averti adesso qui, ma se sapessi quanta gioia tu mi dai, non dico sempre ma ne manco mai. Se fossi lì in questo istante io ti bacerei piano, ma che ci penso meglio stringersi la mano. Molto più di due tettone e un cervello, un bel nome, con questo non mi sdegno affatto. Le tettone poi non conta solo il sesso, l'importante è tutto il resto. In effetti conta molto farlo spesso, spesso, spesso. Ragazza del mio sei, mi innamorerò di te, io mi innamorerò di te, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, io mi innamorerò di te, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, ragazza del filmino sei, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, io mi innamorerò di te. Ragazza del filmino sei, io mi innamorerò. E tu di me, e tu di me, e tu di me, e tu di me, e tu di me, e tu di me.